debbo soggiacere alla rovina di questa nefasta guerra e cado in un dolore profondo e mi domando se l'essere o il non essere sia cosa necessaria all'uomo e concludo negativamente, sottolineato. Io ho la religione del silenzio. Sono le lettere dei soldati affetti da sindrome di shell shock o nevrosi da combattimento e trattati dalla psichiatria europea con ogni mezzo possibile, anche i più violenti e coercitivi, al solo scopo di rimandarli al fronte, al più presto. La mia vita è gravemente perseguitata di martiri e croci perpetue e supplizi. Il mio povero cuore purga sempre di continuo. Levatemi questo cappello di pezza che ho H sulla testa. Sono lettere di contadini, analfabeti, semi-analfabeti, persone che non avrebbero forse mai preso in mano la matita se non fosse stato per la guerra. Ma ci sono anche le lettere di soldati colti, di studenti, letterati, scrittori, come questa qui. My dear pater, mio caro papà, in latino, è la lettera di un writer fighter dalla Scozia. Si chiama John B. Nicholson e l'ho trovata sul sito dell'Università di Oxford, Oxford Poetry Archive. È un archivio digitale, un'enorme banca dati che raccoglie i manoscritti originali dei principali autori, poeti dell'epoca, Owen, Sasson, ma anche lettere di soldati semplici, cimeli di famiglia, fotografie, e compresa la lettera di John B. Nicholson. Mio caro papà, le Fiandre, 9 luglio 1915, my dear pater, e John B. Nicholson fa una lunga, articolata descrizione della vita di trincea, nelle trincee inglesi, molto diversa da come viene raccontata a casa, questo lui ci tiene a dire. E possiamo leggere qui: This modern warfare, as seen by the man at the front. Questa guerra moderna, così come la vede l'uomo al fronte. You are ordered to take up a certain position. Ti viene ordinato di prendere una posizione. For an hour or 2 hours or 3 hours you march. Devi marciare per ore. All your kitchen, all your library, all your wardrobe are in a pack upon your back. Tutta la tua cucina, la tua biblioteca, il tuo guardaroba sono in un sacco sulla tua schiena. Round your body is your arsenal. Intorno al tuo corpo c'è il tuo arsenale. È la guerra moderna di John B. Nicholson. Your clothes are the colors of the earth. Hai gli abiti del colore della terra. There you are, a complete soldier. E la lettera va avanti per ben 3 pagine, a un certo punto si interrompe, viene ripresa qui e là, possiamo trovare degli interventi della censura, fino alla sua conclusione. Well, father, I must leave you now. Caro papà, ho scritto troppo, questa lettera è andata ben troppo avanti, adesso è il caso che io la lasci. Love to matter, amore a mamma, your son, John. E più sotto possiamo leggere cosa ne è stato di John B. Nicholson. 3 days later, as he was reinforcing the parapet of a trench, 3 giorni dopo, mentre rinforzava il parapetto di una trincea, John was shot through the heart by a German sniper. John è stato colpito dritto al cuore da un cecchino tedesco e il suo corpo si è unito alla triste parata nel cimitero militare. E sul sito possiamo trovare anche una foto, un bell'uomo con i baffetti. Era John B. Nicholson, dalla Scozia. Ma può anche capitare di usare la rete per fare una ricerca personale che nasce da una qualche ossessione che hai nella testa. Ad esempio, perché ti è capitato di leggere poche righe su un libro di storia. In queste poche righe si parla di un episodio che risale ai primi mesi della guerra combattuta dagli italiani, quindi l'estate del 1915, e si parla di un comandante italiano, di cui non si specifica il grado, che si suicida dopo aver mandato di propria iniziativa tutti i suoi uomini all'assalto alla presa di un monte, lo Sleme in Slovenia, una di quelle montagne che si prendevano e poi si perdevano e poi si riprendevano ancora e in mezzo si moriva, decine di migliaia. Ecco, di questo episodio inizialmente non si trova nulla, non si ha nessun riferimento preciso, ma dopo, digitando esattamente i pochi dati a disposizione, innanzitutto il corpo militare, la brigata alpina, la Intra, quindi brigata Intra, Monte Sleme, luglio 1915, ecco che troviamo una foto, diciamo un file PDF, quindi una fotografia di una vecchia cronaca militare caricata in rete. Bisogna dire che le forze armate sono molto preparate nel documentare le proprie gesta in rete, e così troviamo questa vecchia cronaca militare. In fondo alla prima pagina, siamo nel 1915, troviamo appunto alcune informazioni. Si dice che l'Intra, in rincalzo all'Exilles, ne segue il movimento e poi si arresta tra i 1000 e i 1100 metri. Dopo, per iniziativa del comandante, avanza decisamente su Sleme Planina, che è appunto dei pascoli vicino allo Sleme, e si legge infine che ogni sforzo è reso vano dalla risposta avversaria e gli alpini battuti da fuoco micidiali sono costretti a ritirarsi. Allora, se fosse questo l'episodio, noi abbiamo una data, il 3 luglio, andiamo a cercare in fondo al documento e troviamo l'elenco degli ufficiali caduti in seguito a ferite o prigionia, e il primo nome che leggiamo è Garrino Luigi di Piacenza, morto in località Rudeci Rob sotto lo Sleme il 3 luglio per suicidio. Allora si tratta di lui, è probabile che sia questa la persona. Se andiamo a cercare sempre in rete l'elenco dei caduti piacentini, troviamo appunto Garrino Luigi di Piacenza, il nome del padre, figlio di Lodovico, nato il 17 luglio 1870, quindi stava per compiere 45 anni, non era un ragazzino, e morto in località Rudeci Rob il 3 luglio 1915. Ed ecco che poche righe su un libro di storia vengono ad avere un nome, un accento, un padre, e diventa la vita di una persona per quello che può servire. Perché se noi oggi Garrino Luigi lo chiamassimo Giovanni, Antonio oppure Giuseppe, che differenza farebbe per noi? Ed è proprio questo quello che fa, forse il più importante autore della Grande Guerra per l'Italia, Emilio Lussu. Emilio Lussu era un intellettuale, era un uomo d'azione, era un antifascista che dopo la guerra combatté contro il regime mussoliniano fino ad essere esiliato al confino a Lipari, da cui fugge nel 1929 rocambolescamente per mare sul Mediterraneo e se ne va in Europa a organizzare la resistenza, dove però a un certo punto è costretto a fermarsi per motivi di salute, e nel 1936 in un sanatorio scrive il capolavoro della prima guerra mondiale vissuta dagli italiani, Un anno sull'altipiano, che non vedrà la luce in Italia se non fino al dopoguerra, perché certo non è un libro che può essere pubblicato nell'epoca fascista. Allora, in Un anno sull'altipiano, Emilio Lussu racconta la storia di un disertore, Giuseppe Marrasi. Noi la prima volta Giuseppe Marrasi lo vediamo che si consegna, almeno crede di consegnarsi, ad un reggimento di bosniaci arruolati nelle file austro-ungariche, che dunque si sta consegnando al nemico, perché all'epoca prigionieri del nemico era visto come meno pericoloso che soldati in trincea, ma in realtà quelli lì che avevano davanti e che gli stavano sparando addosso non erano né bosniaci né austriaci, erano altri italiani, perché nella confusione della guerra di montagna in quel momento gli italiani si stavano sparando tra di loro, e dunque Marrasi sta andando di nuovo in bocca ai suoi che lo beccano. Da quel momento in poi viene soprannominato il bosniaco e lo rimandano in trincea, perché la punizione non è la galera ma è appunto la trincea, la prima linea. Di nuovo Marrasi viene ritrovato a un certo punto smarrito nelle retrovie, sostiene di aver perso un tascapane, uno di questi pezzi di vita che il soldato porta addosso, e di nuovo viene rimandato al fronte e ci prova ancora, perché sostiene di saper parlare il tedesco per finire in una postazione di intelligence e dunque appunto sfuggire ai combattimenti. Non lo sa il tedesco, quanto ci vuole a scoprirlo? Marrasi torna di nuovo in trincea, dove non ce la fa più, ed è così che a un certo punto lo vediamo che scavalca la prima linea del reticolato italiano a mani in alto, disarmato, e inizia ad attraversare una piccola vallata ricoperta di neve che distanzia le trincee italiane da quelle austriache. Che cosa succede a questo punto? Gli austriaci tacciono. è un potenziale prigioniero, non conviene sparargli addosso. Sono gli italiani che aprono il fuoco. Prima è soltanto il suo reggimento, poi è l'intera linea italiana che comincia a sparare alle spalle di quest'uomo che cammina a mani in alto nella neve. Ha tanta e lonta che a un certo punto un tenente italiano, Cosello, scavalca anche lui il reticolato italiano e inizia a pedinare Manrasi. Un passo, boom, un colpo, un passo, boom, un colpo, un passo, boom, un colpo. A quel punto Emilio Lussu lo chiama indietro perché teme che anche lui venga colpito dal fuoco amico. Gli dice: Cosello, torna indietro, torna qui. Cosello si ferma diligente, si gira: signor sì, sì signore. Ma prima bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom, scarica tutto il caricatore addosso a Giuseppe Manrasi, che va giù, ma si rialza e ricomincia a camminare. Sembra invulnerabile al tiro dei suoi, fino al momento in cui arriva un ostacolo. È il filo spinato, è la prima linea del reticolato austriaco. Il reticolato, questa misera e terribile cosa, non è altro che filo spinato arrotolato, ma voi provate a superarlo mentre vi sparano addosso. Ed è così che Manrasi per la prima volta si mette le mani nei capelli, inizia a camminare avanti e indietro, non sa più che fare. Ma poi vede un albero. A quel punto si leva la giberna, gli ultimi pezzi di questo guardaroba che il soldato indossa e tan, tan, tan, tan, tan, si arrampica sull'albero e salta giù in mezzo tra la prima e la seconda linea del reticolato austriaco. Gli italiani gli tirano una bomba, boom, giù. Va Manrasi un'altra volta e un'altra volta si alza in piedi. A questo punto ce l'ha fatta. È tra la prima e la seconda linea del reticolato austriaco. Il nemico è a meno di 2 metri da lui. Qualcuno gli parla, qualcuno gli tende una mano. Ed è soltanto allora che Manrasi muore, con il corpo tenuto ritto in piedi dalla neve e le mani che poggiano sulla seconda linea del reticolato austriaco. Ma chi era Giuseppe Manrasi? Emilio Lussu sostiene di aver raccontato solo fatti da lui realmente vissuti, ma di aver cambiato i nomi per proteggere il privato delle persone coinvolte. Noi volevamo scoprirlo, il vero nome di Manrasi. Lo abbiamo chiesto. Ci è stato risposto che non si può sapere, per non turbare l'onore della gloriosa Brigata Sassari. Negli elenchi dei caduti, come quello in cui figura il nome di Garrino Luigi, il nome di Manrasi non ci può essere, perché l'Italia è l'unico paese europeo a non aver perdonato i propri disertori. Perdonato. O piuttosto a non aver ancora chiesto loro perdono. Eppure c'è qualcosa che ci spinge ancora a continuare a cercare, come chi passa una vita intera, magari 10-20 anni della sua esistenza, chiuso dentro una stanza, ad aprire buste gigantesche, e dentro queste buste ci sono altre buste, e dentro le altre buste c'è una ciocca di capelli. C'è un marito che scrive: cara moglie, ti saluto con un urlo, firmato tuo Aldo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ci sta un padre che scopre la paternità solo quando è lontano dai suoi bambini e dice: guai a te se fai piangere la bambina. Ma tutte queste mogli, questi figli, questi genitori, le loro lettere non le hanno mai ricevute, perché la burocrazia dei manicomi, dei tribunali, vuole sì che vengano conservate, magari anche per 100 anni, ma mai spedite.